Allora, buonasera a tutti, siamo qui in diretta sulla Revancia su Wombat Radio. Vi ricordiamo, come tutte le volte, dove potete trovarci: il sito wombat.noblogs.org, il twitter.com/radio wombat fi, il Facebook facebook.com/radio-wombat-firenze, oppure la buon vecchia mail posta@wombat.net. Da diretta al Wombat, ancora bentornati alla Revancia. Stasera siamo con un caro amico sorridente, Lorenzo Bellia, proprietario dell'Hammered Sound. Possiamo dire proprietario? Eh sì. Uno studio che finalmente ha trovato una collocazione. Mi ricordo quando anni fa si registrava alla saletta bellissima dietro al Duomo, via Folco Portinari, davanti all'ospedale, giustamente in cantina. Com'era, come si chiamava il tipo che aveva le cose funebri sopra di voi? Faff, sì, Faff Pompe Funebri, signor Faff. Un posto bellissimo dove abbiamo registrato diverse cose, dove hanno registrato tanti gruppi di Firenze, perché all'epoca venivamo tutti da voi, cioè tutti da te, a registrare, sì, tantissimi. Quando muovevi i primi passi nell'ambiente della registrazione, no? In realtà no, però nella registrazione con un fondo in cui registrare, sì, infatti, no? Era quello il senso. Ah, sì, il primo fondo utilizzabile per registrare, sì. Quanti quello. Progetti assurdi sono nati lì sotto? Tantissimi, assurdi, veramente tanti, non saprei quantificarli. meno di 50. Meno di 50, però siamo vicini. Ma io credo intorno alla ventina. Mi ricordo anche alcuni esperimenti pazzi di Johnny. Sì, con Johnny ci sono stati i Gomorra, grind acustico con versi degli animali, facevamo noi. Ci è successo di tutto in cantina. Sì, ormai è passato. Si parla tempo. Di 10 anni fa. Quando la cantina è iniziata nel 2003. Ed è nella primavera del 2003. Ed è cessata nel gennaio del 2010. Pensavo un po' di anni in più, 2012, no? Gennaio 2010 è stata lasciata la... Che poi entrarono anche, no? Se non mi ricordo male. Sì, purtroppo sì. Entrarono, ma furono dopo poco colti sul fatto da Shadi, che passava lì, da un nostro amico, che passava lì di là, per l'appunto, e qualcosa è stato recuperato. Sì, fortunatamente. Mi ricordo, ma tipo due casco, una cassa, sai che mi portarono via? Portarono via tutto. Ah, tutto. Però tranne la batteria. Perché ha troppo però si ritro- sì, esatto, si ritrovò tutto in giro tra Santissima Annunziata e i vicoli del centro. Fu una scena tipo grosso guai a Chinatown. Andavamo in giro con le mazze a cercare queste cose, The a Warriors. Chiedere in giro. Sì. Purtroppo musicisti contro ladri a The Warriors. Sì. Ora è un ricordo divertente. C'era un tizio che stava vendendo la mia testata a 50 euro in Brunelleschi. La CSM, sì. 900. Cercava, noi la trovammo e disse: questa è nostra, daccela. No, lo sto vendendo a 50 euro. Porco disse, no, Dio. È nostra. Cioè, ti immagini... Eravamo piuttosto arrabbiati, ce l'ha restituita. Sì. Ti immagini che lo si comprava una CSM 900 a 50 800. 800, sì, scusa. Che è ancora più un affare, quindi, a 50 euro. Sì, infatti. Ma ce l'ha ancora quella testata? Sì. Ce l'ho ancora. E credo che... finché poi non morirò di fame non me ne libererò mai. Fai bene. Alex si è comprato una 2000 settimana scorsa, così. Beh, è contento. Vabbè. Io sono un marcialista, quindi sostengo tutte più le quasi marcia. Sì, fino alla 2000 ci si sta dentro. Poi dopo la 2000 è borderline, io gli ho detto secondo me è un po' troppo, è un po' borderline, potevi prendere la 900. E lui, ma non sì, l'ha trovata. Se non l'ha trovata, va bene anche una 2000. Ma infatti, vabbè, comunque, a parte questi ricordi simpatici, sì. Andiamo avanti, parliamo del presente, parliamo di questo studio che stai facendo in casa. Allora, lo studio è finito, dopo 2 anni di lavoro col Gilbe, salutiamo, ciao Gilbe. Non ci sentirà mai, ma lo forzeremo a sentire tre volte questa trasmissione mentre lavora o lì a scalpellare o a rifare mattonelle. Dovrà sentire questa trasmissione in cuffia. Dovrà. E quindi dopo 2 anni è finito finalmente. Ora devo giusto verniciare la regia e finirlo, e poi è tutto definitivamente pronto. Tutto è già pronto, ci stiamo già registrando il disco nuovo con i Noia. Però okay, prima di inaugurarlo definitivamente aspetto di averlo proprio finito. Sì, finito al 100%, sì, giustamente. Sì. Però è già in moto. In funzione. Sì. E niente, quindi... Cosa hai registrato lì finora? Stavi registrando solamente il disco di Noia? Per ora stiamo registrando solo il disco di Noia. Okay, poi ci sono già cose in ponte che farò a breve. E poi viene in mente anche per promozione e soprattutto anche per sperimentare il luogo nuovo, perché io ora finalmente ho un posto nuovo in cui sperimentare tecniche nuove, strumentazioni nuove. Volevo chiamare dei gruppi per fare un po', tipo che so... li faccio registrare una canzone gratis, sì. E almeno provo varie cose, quindi sì, loro non hanno niente da rimetterci, al limite ci rimettono una giornata a suonare, infatti. Io sono contento perché posso sperimentare e siamo tutti contenti. Sì, giusto. Sì. Vabbè, adesso parliamo un po' di pezzi di gruppi, cioè parliamo dei gruppi che ha registrato finora e metteremo alcuni pezzi di questi gruppi, sì, no? E ciao. Noi ci abbiamo portato 10 canzoni, 10 gruppi e quindi 10 canzoni. Di cosa? Sì. Allora, queste canzoni sono di questi relativamente recenti. Prima parlavamo di cose di 14 anni fa, quindi sono recenti. Sono gli ultimi 2 anni. Ho cercato di portare un po' di cose di vari generi, purtroppo qualcuno è rimasto fuori per forza perché non si può mettere tutto. Ci scusiamo con tutti. E non c'è nessun gruppo mio, quindi mi sono lasciato fuori io in primis. E allora, il primo pezzo che sentiamo ora è un pezzo che è l'unico pezzo, tra l'altro, questo che non è ancora stato pubblicato. È un pezzo dall'ultimo disco dei Nido di Vespe. È stata una registrazione che è andata bene, loro sapevano perfettamente tutto quello che volevano, è andato tutto liscio e loro sono contenti e anche io. Questa si chiama Il vento d'inverno. Nido di Vespe hanno sempre questi nomi Apo, questi nomi un po' filosofici, e poi tanto poi non dici un cazzo Apo, tanto non mi ascolti e quindi ti posso infamare, tanto infamo anche dal vivo, quindi... A me piace il testo di questa canzone. sono belli i testini. Ora scherzo, ma alcune sono molto molto belle, sono criptiche, alcune criptiche, altre molto particolari, perché spesso fa una cosa molto bella, secondo me ci mette parti della sua vita all'interno dei suoi testi. Sì, a me piace molto, c'è una frase in questa canzone che è un concetto veramente incredibile se pensi un pezzo hardcore. Dice: abbiamo capito che serve pazienza. Molto particolare, esatto, molto bella. 120 bpm, piace. Però serve pazienza. Serve pazienza. Va bene. Questi sono i Nido di Vespe, Il vento d'inverno, bella lì. We'll be right back. Ciao Apo, grazie del messaggio che mi ha mandato. So che mi ascoltavi, l'ho detto apposta per infamarti, ma lo sai e ti voglio bene siccome. Va bene, adesso questi erano i Nido di Vespe. Sì, noi non ci siamo, cioè Lore la conosce questa canzone, io pure, voi ora la conoscete anche voi, noi non ce la siamo ascoltata perché da qua su non ce la possiamo ascoltare. Però andiamo avanti, parliamo del prossimo gruppo e della prossima registrazione. Sì, allora, il prossimo pezzo è dei Violentor, quindi rimaniamo nella provincia di Lucca, tranne il batterista di Volterra. Allora, questo disco... Però stanno a Firenze loro, tutte e tre, no? No, no. Ricca no. Ricca sta a Lucca. Io credo solo Alessio stia a Firenze. Sì, mi sa forse solo Alessio. Questo pezzo è del loro ultimo disco. Violentor sono un gruppo molto conosciuto ormai, per chi non lo conoscesse è un gruppo speed trash molto prevalentemente influenze anni 80, ma in quest'ultimo disco hanno, come sentirete ora, hanno incorporato anche delle influenze un po' più di metal estremo, quindi è venuto un mescolone molto interessante secondo me, di misto di speed anni 80 con anche blast beat, riff un po' più di metal estremo. La registrazione è stata fatta presso la loro sala prove, in provincia di Lucca, è un posto molto bello in mezzo alle montagne, ha dato tutto benissimo, ci siamo divertiti, sono stato da loro 3 giorni, e il disco si chiama Maniacs e questa canzone è un la maggior parte delle canzoni sono un concept album su un mostro di Firenze. Ah sì? Questa si chiama Power of Lust e niente, ce l'ascoltiamo. Via Violentor. To move, time has run away. Forces. Questi erano i Violentor. Questa era Power of Lust. Appunto Lorenzo diceva dove... mi parlava di dove è stato masterizzato questo disco. La metto ora così almeno sta un po' buio. Sì, stavo dicendo che questo album, come anche quello andiamo a sentire, la canzone andiamo a sentire dopo, è stato masterizzato da Audio Siege, che è uno studio in Oregon dove fanno mastering per, insomma, gruppi che escono su Nuclear Blast, escono su Metal Blade, gruppi come Autopsy, Obituary, hanno fatto anche il master di questo nuovo gruppo che ora va, che si chiamano Nails, che ora sta avendo un po' di successo. Tanto successo, però a me personalmente non piacciono. No, vabbè. No, però sì, viaggiano, cioè in America sono sempre in tour. Quindi io a volte consiglio, se un gruppo vuole, di provare magari volendo a fare un mastering super professional, perché costa relativamente poco. Non costa, cioè non è che costa questa cifra. Sì, con $300 fai sia CD che LP da uno studio di altissimo livello. Quindi se uno vuole, se no lo faccio io senza problemi. Sì, sì, però io la butto lì a volte, certo. Un po' di differenza comunque si sente, perché sai, un conto immagino, un conto è uno che lo fa, che c'ha tutto il materiale apposta per fare il mastering. Esatto, perché la strumentazione per il mastering è diversa da quella per registrare, e anche le competenze ovviamente non sono completamente diverse, certo. Però ci sono persone che fanno solo i mastering. Sì. Insomma, te lo studio, dicevi, lo stai mettendo, cioè sta per essere finito e completato a breve, però questi pezzi qui dove, cioè i Violento li hai registrati a Lucca? Sì. Finito li hai registrati a Firenze o allo studio o alla sala prove loro? A Firenze, presso la sala prove Playloud. Ok. E tutte queste canzoni, molte di queste canzoni sono state registrate in luoghi differenti, ogni disco è stato registrato in luoghi diversi, ma quasi tutti. Io credo 3 o 4, se non di più, presso la sala prove Playloud. Tutto, e dalla poi le ho mixate a casa, tutto. Alle voci. Nella maggior sì, a volte ho fatto le chitarre a casa. Okay. Ma batterie e voci lì al Playloud. Via Ungheria 1, andateci. Sempre. Sala prove Playloud. Supportare quei due debosciati di là del Chicchio. Bene, che salutiamo. Stiamo salutando molti di stasera. Ci sono loro? C'è uno di loro in uno di queste canzoni e sentire sì, un po'. Sì. E va bene, adesso andiamo avanti. Sì. E parliamo dell'Egeria, che Egeria. Sono un gruppo diviso tra il Valdarno e Firenze. Sì, a parte il bassista sta a Firenze, gli altri sono tutti del Valdarno. Sì. Egeria ci suona il Toti, sì, pilastro sì. Del metallo toscano. Sì, sì, anche lui fa un programma nella radio, tra l'altro. Sì, ci andai anche noi. Sì. Black Coffee. Black può Coffee, essere. Sì. Black Coffee. Black Coffee. Il lunedì o il mercoledì alle 9 più o meno. Mi sa che è in concomitanza. Ora mi informo meglio, perché il certo andare era mercoledì o lunedì, non me lo ricordo. Però era alle 8 o 9. Sì. Dopo scena, sì. Trenino, trasmissione e trenino per tornare a casa. E via. Insomma, questo disco è leggero, dove l'hai registrato? Allora, disco leggero, tutto al Playloud. Quello prima mezzo al Playloud, mezzo a casa. Questo tutto al Playloud. Quello prima Egeria, il primo questa è la seconda registrazione, okay. Che fanno è appena uscita su un CD che contiene entrambe le registrazioni, e gli Egeria, ora sentirete un po' il genere musicale che fanno, non mi metto qui a cercare di descriverlo. Egeria, la cosa più particolare, è lento, cioè io quando li ho visti live. Sì, death metal lento, però uno potrebbe pensare magari agli Asphyx, a cose così, okay, mentre loro hanno più settantiano, sì, più sludge, doom. Esatto, sì, più, sì, un sì, po' sì. Più roccheggiante, tra virgolette. Sì. Gli Egeria fanno questo. È uno dei gruppi, dei pochi gruppi che capita di registrare in cui spicca un po' di più il bassista, che a volte magari il bassista senza mancare di rispetto a nessuno, però tende un po' a fare il quello che deve fare, mentre invece c'è un bassista che comunque si sentirete che si diverte, è propositivo, sì, e si sente. Mi piacciono molto i dischi in cui il basso è audibile, nel metal questo spesso viene un po' messo in secondo piano. A parte bassisti appunto di un certo livello che risaltano. E secondo me in questo gruppo ha un bassista che risalta. Sì, tra l'altro andranno in tour a breve, fra due mesi, una cosa del genere, in Nord Europa. Mi sa col boss alla voce, perché Pesce sarà a tatuarsi da qualche parte in giro per il mondo. Non so se è San Francisco a Torino, ma quando lo vedo glielo chiedo dove sarà. E vabbè, questi sono gli Egeria. Questa canzone si chiama Suicide. Tra l'altro c'è un video per questa canzone. Ah, è vero, sì. Sì, andate su YouTube, guardatevi il video. E c'è anche una buona recensione, ho letto una buona recensione di questo disco. Non mi ricordo se su Metal Italia o altro. Bene. Vabbè, comunque... Egeria Suicide. Questi erano gli Egeria Suicide. E andiamo avanti adesso. Ti dicevamo prima il discorso del furgone, devi dire una cosa degli Egeria, no? Mi dimentico. No. Gli Egeria ha già detto tutto. Fine degli Egeria. E vabbè, adesso andiamo avanti e parliamo di un altro gruppo sempre registrato da Hammered Studio, i Necromorbid. Necromorbid sono un gruppo di... sono in tre, sono uno di Empoli e due di Volterra. Il batterista è sempre il batterista dei Violento, Iago, batterista impressionante, bravissimo secondo me. Questo gruppo è un po' più metal estremo, quel death black di gruppi tipo Blasphemy, Black Witchery, così. Questo disco, anche questo disco è stato masterizzato da Audio Siege e è uscito per ora in cassetta per Caligari Records, a breve uscirà anche in CD e nell'EP. Si chiama Il Dia della Bestia, spagnolo, esatto, è il titolo di un film, credo. Sì, ma sì, anche cosa di un quadro. Ora, guarda, si cerca su Wikipedia e tanto okay. Se parla io cerco. Va bene. E questo disco è stato registrato presso la loro sala prove a Fucecchio. Anche questa registrazione è andata tutto bene. Musicisti. Sì. Erano preparati. È un film. Il giorno della bestia. Il giorno della bestia. Un film del 1995 diretto da Alex de la Iglesia. Ha vinto 6 premi Goya su 14 candidature. E sti cazzi. Comunque, parliamo ancora di Necromorbid. La registrazione, si diceva. La registrazione è stata la scorsa primavera, verso aprile-maggio. E ora ascoltiamo Night Burial Evocation. Dai. Bene, bentornati sempre alla Revancia su Radio Wombat, diretta ai Wombat. Questi che abbiamo ascoltato prima erano i Necromorbid e appunto stavamo parlando allora due gruppi, uno che abbiamo già sentito e uno che sentiremo, sono già stati passati su queste future frequenze perché ancora siamo in streaming, i Nido di Vespe prima, mentre adesso passiamo I Loia. Dunque, due parole su questa registrazione. Questa registrazione è stata fatta interamente presso il Playloud, tranne naturalmente il mixaggio, le prese sono state fatte lì. Loya sono un gruppo, secondo me, molto particolare. Mi piace il fatto che riuniscono cose molto distanti tra di loro, volendo, come un po' mi ricordano un po' l'hardcore italiano, tipo i Wretched, per il caos dell'esecuzione e la voce, i testi in italiano. E i riff che sono molto particolari. Stefano ha uno stile molto personale, sì, sì, bella, sì, questa cosa, che sono un misto tra hardcore, il death svedese, cose una... che non so nemmeno come si chiamino, dissonanti, è una cosa post, cioè, il fatto che lui comunque è da solo, senza basso, e si occupa solo lui, no, di scrivere pezzi, sì, cioè, ci mette tanto di suo e nessuno gli può dire no, questa, cioè, me la immagino così, mi immagino loro tre in sala prove con Ste che arriva e dice ho fatto un riff, è tutti bello, però magari se c'è un bassista gli può dire no, questa cosa no, no, e quindi riesce a essere completamente autonomo, tra virgolette, perché comunque sei, sì, un gruppo e sei a provare, magari c'è il bassista che anche solamente per ascolti differenti dai tua quella cosa non gli piace perché è dissonante o perché c'ha quel passaggio e quindi no, è una cosa positiva, nel senso, mi sono solo immaginato loro in sala prove con Diserto che sta in un angolo al telefono e io avendoli visti non posso immaginare un granché perché li ho proprio visti. Ok. Però... e allora dimmi come sono, se li hai visti. No, scherzo. Ma suonano, si divertono, fanno i pezzi. Sì, da? Sì, sì. E ci gira intorno al basso, secondo me non se ne sente la mancanza. No, quello è vero. Anche perché vero, la chitarra è accordata molto bassa, è in la, quindi sì, sì, è molto come una sette corde, un tono sotto, quindi ancora un tono sotto, quindi comunque le cioè, presenze basse sono tutte occupate. Ci sono. Questo disco è stato masterizzato da Enormous Door, che ha masterizzato dischi di Darktron, Poison ID, eccetera. Però non sono molto contento di come è venuto questo master, perché è stato molto intrusivo, l'ha riequalizzato molto, mentre Audio Siege fa un lavoro di fino, lascia i suoni del mix e li migliora. Lui è molto molto... abbiamo dovuto un po' penare per portare, sì, a termine questo master, che ne mandò un primo improponibile, sembrava uno scherzo. Ma serio, tipo che senso? Non andava bene per niente, non so come descriverti da parole, però era... E poi mandò questo che insomma è un po', secondo me poteva venire meglio, però vabbè, tipo c'è un sacco di alti, si sente la cordiera del rullante che fruscia, però naturalmente essere pignoli, però bisogna anche essere, certo, pignoli, fa queste cose, senso... non dico che fa proprio schifo, però alcune cose, qualcosina poteva venire meglio. Poteva venire giustamente, dopo uno spende del tempo e esatto, volentieri tra l'altro a fare una cosa e vuole vedere un bel risultato, perché ci ha messo tanto impegno nel risultato e quello che viene fuori non è una cosa che ti aspetti, anzi è peggio forse, no? Allora, questo è un punto di vista mio, no, perché certo, loro comunque certo, erano loro sono contentissimi, sì, sì, di quello, sì, venuto, sì, e anch'io sono contento di come è venuto. Certo, però quelle migliorie... quelle piccole, cambiate, esatto, quella, sì, cosa, sì, lì, sì. Lui c'ha questa equalizzazione sua che mette in tutti i master che fa, perché dopo mi sono messo a cura. E leva un sacco di medi, mette parecchio bassi e alti. Se uno ascolta Darktron sente la differenza degli album che ha masterizzato lui, non c'è quel suono medioso di chitarre hanno sempre avuto loro, ma è un po' più scavato nei medi, eccetera, e così. Comunque questo disco secondo me è venuto bene, no, in particolare mi è piaciuto, particolare abbastanza. Va bene, sì sì, è particolare, sì. E adesso ascoltiamo? Questa è Rabbia. Vabbè, sentiamoci Rabbia, un saluto alla mamma del Diserto, lui sa perché. We'll be right back. questi erano i Loia con Rabbia. Adesso andiamo avanti e parliamo di un altro gruppo, anch'esso fiorentino come Loia. Tutti sì. Sì, vabbè, i Loia magari sono proprio di Firenze, mentre i Mastidolatri c'è qualcuno di Prato. Alyosha? Sì. È di Prato, anche Alyosha, se però è andato di Prato. Via, però mi sa che questo disco c'è Alyosha o... Questo disco c'è Alyosha. Ok, perché poi andò via anche lui, no? Se mi ricordo male, no. No, no. Non ci andò, no, è vero. E Edo andò a suonare con i Seekening, non con i Mastidolatri. Esatto. Confondo io, perché il chitarrista è lo stesso, vabbè, comunque. Anche il batterista. Anche il batterista, sì. Anche se però, ora non ci sono più il batterista. In nessuno dei due. Sì. Ok, quindi stavamo parlando dei Mastidolatri, per chi non lo sapesse, gruppo grind fiorentin pratese. E niente, questo disco come è andata la registrazione? Allora, questo credo che sia la registrazione più vecchia di queste, non so se di due se non più anni fa. Questo disco è stato registrato interamente al Play Loud, tra l'altro il chitarrista di questo gruppo è uno dei due proprietari. Questo disco è un death grind un po' alla Nasum, ma un po' più death metal. Un misto tra grind alla Nasum e death metal svedese. E, alla voce c'è il Pinzi, che canta e suona il basso anche nei Nudist. E, questo disco è uscito in CD un anno e mezzo fa ormai, e purtroppo ora questo gruppo tra virgolette non c'è più, stanno cercando un batterista. Quindi se qualcuno di voi all'ascolto sente la canzone, gli piace e vuole proporsi, in bocca al lupo. Mai tolto le parole di bocca. O se tra qualcuno dei batteristi che hanno suonato in gruppi, abbiamo passato precedentemente a 2 ore e mezzo libera a settimana per andare a provare, può sentire i Mastidolatri e suonarci insieme. Comunque, insomma, si diceva, è stato allora, registrato... questo registrato è Play Loud, questo registrato, mixato e masterizzato, ho fatto tutto io, e per musicisti con esperienza, qualche disaccordo su come impostare i suoni, vabbè, cose anche abbastanza tipiche, però alla fine è venuto, secondo me è venuto piuttosto bene. Quindi, cioè disaccordo, ecco. Magari il chitarrista voleva più chitarra, più batteria, meno crash, più Charleston, manie di protagonismo tra virgolette, sia simpatico, sì. non è un'offesa la mia, No, ma allora, sono cose che succedono sempre, perché, come dicevi prima, quando arrivi a registrare è un po' un momento clou, perché stai arrivando a concretizzare cose per cui hai stai arrivando a concretizzare, sì. Mesi se non anni di prove, sì. Decisioni, sbattimenti, sorrisi e esatto, più ne quindi, ha più ne metta. Quindi è un momento importante e quindi essere al 100% sereni e tranquilli non è proprio, no. Non è possibile. Ho fatto quindi un danno, ma niente, cioè, sempre... Però il risultato penso sia venuto abbastanza bene, quindi quelle cose dicevo prima alla fine sono ordinaria amministrazione, sì, comune denominatore di tutte le registrazioni, se mi è tornato in mente ora e lo raccontavo. Quindi questa è Stoned Edge of Society dal disco dei Mastidolatri. Like a fragile child. questi erano rimasti idolatri. E niente, stavamo parlando a microfoni spenti di una cosa e non diciamo, e ora invece parliamo del prossimo gruppo. Ok. Che sono i Da Eva. Esatto. Allora, questo è il gruppo un po' più tranquillo del lotto. Gruppo più o meno di Firenze, anche questo. Sono in tre. La musica è anche qui, non so, secondo me sono un mescolone di cose anni 90, un po'... Sì. Un po' psichedelico. Un po' Alice in Chains, un po' psichedelico, un po' stoner. Un po' post. Sì, un po', qualche riff un po' black, così. Sì, sì, sì. E questa registrazione è stata fatta al Playloud, fatto qui, mixato e masterizzato tutto da me. E... Com'è andata? Bene, che dire, sì sì sì, allora hanno un batterista che non usa le tom, solo un timpano e ha il cembalino, e molto particolare, fa dei giri di batteria molto semplici e ripetuti, quindi secondo me è un batterista un po' particolare. Mastro si chiama. E la copertina di questo disco l'ha fatta Stefano, chitarrista De Loia, che fa gli artwork. Sì, che ha fatto, e quindi, anche la copertina De Loia, appunto. Che ha fatto anche la copertina De Loia e tante altre di gruppi di Firenze. Sì, e non solo. E non solo, certo. Quindi se vi serve un artwork, contattate Steve Indronat. Steve, sì, Coito Negato Artworks. C'è anche la pagina Coito Negato, e salutiamo, starà oppisciando bevendo una Bavaria. Molto esatto. Tutte e due in contemporanea. Quando vedi tua sorella salutamela e dille che tutto questo, dicendo tutto riferito a te ovviamente, sì, dille che ho comprato il van solamente per portarla a giro. Ora la mia ragazza mi ucciderà se mi sente, però dopo le spiegherò che la sorella di Steven di Stefano non esiste, è tutta una finzione, eccetera eccetera. Comunque parliamo di Da Eva. Questa la canzone esatto, dal disco si chiama Embrace the Lie, e questa si chiama Catharsis. Go. Yeah. niente, siamo tornati in diretta su La Revancia Wombat Radio. Questi erano i Deva. E abbiamo approfittato per andare in bagno. Sì. le peroni ci stiamo bevendo, hanno fatto il loro effetto e andiamo avanti. Parliamo di un altro gruppo di Sesto stavolta. Esatto, sì, io mi ricordo la prima volta, mi ricordo come li ho conosciuti, tramite MySpace, che mi ricordo perché fu incredibile vedere un gruppo di Firenze, io non sapevo erano di Sesto, cioè Thrash Metal Firenze, questi ragazzi tutti trash con i giubbotti di pelle, capelloni, dicevo accidenti, che bello, un gruppo trash di Firenze. Gruppo trash di Firenze che non conosco, cioè... Nuovo, sì, sì. E poi, diversi anni dopo, quasi, credo che questa registrazione sia del 2014 forse, quindi molti anni dopo, è stato registrato questo disco Alla Deriva. Però la canzone che ascoltiamo ora è una riregistrazione di un pezzo che c'era anche nel demo, che si chiamava Roma a mano armata. Il demo a sì. mano armata e basta. No, Roma a mano armata. A mano armata Roma, e basta. Sì. Sì. Mentre questo disco si chiama La Deriva. Si chiama La Deriva. Dunque, questa canzone si chiama Terminator, quindi parla del film Terminator, naturalmente. Terminator. E questa registrazione è stata fatta, abbiamo fatto le batterie e le voci al Play Loud, le chitarre a casa mia, e me la ricordo con simpatia questa registrazione, perché alcune cose sono state fatte anche lì per lì. Mi ricordo venne il chitarrista a fare le chitarre a casa mia, Schioppo, arrivò e aveva solo il zainetto. Io ho detto: ma non ce l'ha la chitarra? Fa: ah no, ce l'ho aggiustare, ce l'ha una chitarra. Quindi fa, da lui è venuto senza la chitarra, bellissimo. Grande. E però il disco è venuto, particolarità anche che questo è un disco un po' meno trash rispetto al demo, che c'è molte influenze anche hardcore in sì, questo disco. Sì, un po' più hardcore, sì. Però in italiano, quindi trash in italiano abbastanza atipico, quindi... ma figo per certi versi, secondo me. Cioè alcune cose sono, cioè se i testi sono belli, alcuni testi dei Collapse sono belli, a me piacciono personalmente. Sì, mi piace anche la voce del cantante. Sì, sì. Che suona tra l'altro la tromba. Sì, sì, sì, sì. Oscar. Grande, grande Matte. E Collapse, grande batterista, anche qui un basso, un'altra particolarità, il basso pulito, insomma Jacopo, e anche questa è una cosa un po'... Ormai il basso pulito si vede poco. Sì, insomma, soprattutto quindi... in questi generi qui. Sì. Nel senso, magari se fai... Credo solo loro i Sophisticator abbiano il basso pulito. Okay, quindi Sophisticator non ci ho mai fatto caso a questa cosa. Li ho visti 2 o 3 volte, ma forse 2 e basta. E niente, la situazione è fatta quindi... così. Questo disco è uscito 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, 1 anno fa. Non una cosa del genere, cordata di coproduzioni. E niente, Terminator The Collapse, go! We'll be right back. E niente, questi erano i Collapse con Terminator, che salutiamo. Bravi ragazzi. Dai, assolutamente sì. Bravi ragazzi. A parte il lupi, no scherzo. E da bravi ragazzi si passa a delle brave ragazze. Brave ragazze. queste sono le in vitro. Sì. Il prossimo gruppo. Un gruppo composto da tre elementi, sono tre donne, hanno suonato tra l'altro nello stesso stabile da cui stiamo trasmettendo. È vero. E niente. Questa registrazione come... Questa registrazione è stata fatta al Play Loud interamente. No, il basso l'abbiamo fatto a casa mia. L'abbiamo rifatto a casa mia. Scusa, faccio un po' di confusione. No, vabbè, ci credo. Faceva prima a venire da te, forse no. La tua sorella magari ci metteva ad andare al Play Loud. Ha dovuto rifare alcune parti di basso e quindi l'abbiamo rifatto di sana pianta. Tutto quanto okay. Le canzoni. Per noleggiare la sala e tutto, meglio farlo da te piuttosto che andare a noleggiare il Play Loud per rifare solo il basso, no? Sì, sì, era più pratico farlo così. Infatti. Quindi abbiamo rifatto, questo a dire il vero è un EP, non è un disco, dura, io credo, ora non vorrei sbagliarmi, ma io credo che duri meno di 20 minuti. Vitro sono un gruppo femminile, sono in tre, la musica mi dicono che è sludge hardcore. Sì, loro ci dicono che è sludge hardcore. Loro ci dicono che è sludge hardcore, noi ci crediamo. Sì, infatti. E... anche qui si torna al discorso sulle etichette, come puoi... Sì, sono discorsi ovviamente da prendere a se stessi, da prendere, anche, no? Insomma, da prendere con le molle, cioè, per praticità, niente, sì, nessuno non c'è statement, no. Non c'è nulla, è tanto per capirsi, qualcosa devi dire. Anche se tra hai un gruppo, incontri un amico, un gruppo nuovo, cosa di chi domandi? cosa fate? Per forza qualcosa devi dire, perché musica estrema, sennò magari possiamo passare con la chitarra e la batteria. Sì, cioè, anche tra i gruppi che abbiamo ascoltato c'è tanta differenza tra alcuni e anche una minima differenza tra gli altri, e però è sostanziale l'etichetta che dai a quello che fai per capire le differenze, perché magari tra i Massi d'Oro e il Nido di Vespe c'è il grind, no? Come comune denominatore, però i Nido di Vespe sono più sul trash per alcune parti, mentre i Massi d'Oro sono più sul death metal. Quasi completamente diverso. Si tratta di quelle piccole sfumature che esatto, come vai a far capire uno ha mai ascoltato metal, la differenza tra speed e trash, sì, quello un po' più veloce, il riff più così, più sì, sì. Però se lo sai poi dopo puoi capire che meglio il ruolo che hanno le etichette, esatto, tra l'altro. Comunque in vitro questo EP, abbiamo detto hardcore sludge. E questa canzone si chiama Harvest of the Flesh. Harvest of Flesh. We'll be right back. stavo iniziando a parlare non ci sono riuscito. Queste erano le in vitro. E niente, ora il prossimo sarà l'ultimo pezzo dell'ultimo gruppo registrato dall'Hammered Sound che passiamo stasera, cioè di stasera. Ah, ok, ok. Perché poi ce n'è altri che sono rimasti fuori dalla playlist. Perché anche questa registrazione è relativamente vecchia, anche questa. Io credo che sia di un par d'anni fa anche questa qui. E anche questa è registrata al Playloud? Questa è interamente al Playloud. Ah, ok. Pensavo l'avessi registrata su da loro, su A Casa di Tommy, come hanno fatto l'ultimo disco, invece no, non ci sono venuti più al Playloud. No, sì. Dalle montagne Prato-Pistoiesi. Sì. E niente, questa registrazione è andata bene, anche questa ovviamente. Sì, è stata molto rapida. Nonostante in dolore, le canzoni tu di no. Sì, è stata rapida in tempo reale praticamente. Sì. VJ, si dice così. Si dice V. V. Grande batterista Alarico. Che secondo salutiamo. Me è bravissimo batterista. Beh, soprattutto per queste cose qui rende particolarmente bene. Secondo me ha tanto gusto in quello che fa. Ha gusto, inventiva, picchia, è preciso. Sì, sì, sì. Anche l'altro gruppo. Anche se io lui lo vedi suonare la prima volta, credo fosse stato il 2009 o il 2010, quando suonava in un gruppo death metal che si chiamavano Anged. Ah, che c'era. Ed era, e già comunque era uno di quei batteristi che te li ricordi. Che dici? Sì, sì, però, sì, sì. Bravo lui. Anche perché i batteristi sono pochi, Esatto. E poi B, alcuni, cioè quelli bravi te li ricordi di più. Cioè io meno male tutti i concerti ho visto in vita mia, ma mi ricordo più batteristi bravi rispetto a chitarristi, cantanti o bassisti bravi, perché ti risalta di più il batterista bravo, perlomeno a me. E se poi parliamo anche di musica hardcore, trash, magari anche lì un batterista risalta di più. 51% del gruppo deve fare il batterista, perché, sì. Perché quando devi andare veloce e c'hai quello che ti va veloce, preciso, potente, esatto, che fa magari quel passaggio particolare, eccetera, ti rimane di più in mente. Comunque, smettiamo di farlo bene dall'arrivo, perché sennò si monta la testa. Ok. Parliamo di nomi. Diciamo, loro avevano le canzoni, le sapevano bene, è stato quasi fatto tutto in tempo reale, non c'è stato i pezzi da fare in due take, no. Tutto molto rapido e scorrevole. E questa canzone si chiama KLD, è l'ultima canzone, cazzo, giusto? Cosa significherà KLD? Non lo so. Non lo sanno nemmeno loro, secondo me se glielo chiedo sono dimenticato. Ah, una particolarità di questo disco, se mi ricordo bene, è che ha un pezzo in italiano, un pezzo in russo e uno in inglese. Credo uno in inglese. Quindi forse uno dei pochi dischi che ha tre lingue, sì, diverse. Sì. Se tralasciamo qualche inframezzo dell'Itfiba, tipo Amigo, sì, Jo Soy Maudi, quelle cose lì. Sono canzoni infatti. Maudit, va bene. Questi sono i ladro. KLD, e saranno contenti. È un'introduzione di un finto Piero Pelù. Vai, V. Yeah. Insomma, questo era l'ultimo pezzo. Ivi, ci siamo sentiti 10 pezzi registrati all'Emerald Sound, 10 gruppi che fanno una musica differente. No, vabbè, sì, un genere differente, più o meno. Sì, cioè, filo conduttore fatto un po' mescolato. Sì, un filo conduttore comunque è la musica estrema, tra mille virgolette, ovviamente, perché, anche perché di questo parla la trasmissione. Il rock. Il rock, soprannominato anche da qualcuno a Roma, La Rock. La Rock. La Rock. Andy La Rock. Sì, giusto. Chitarrista King Diamond e dei Death per un album. Sì, e da lui, si fa dischi sua. Quindi. Andy. Grande Andy. Lui. E niente, siamo a fine di questa trasmissione, abbiamo avuto come ospite Lorenzo dell'Hammered Sound. Mi ha fatto molto piacere averlo qui stasera. Piacere mio. Piacere di tutti anche. Parlare, sentirlo parlare di gruppi ha registrato. E penso e spero che tanta gente che ci ascolta della zona, che mi chiede, alcuni mi chiedono: oh Ivan, ma un gruppo, qualcuno da cui registrare, perché non c'è nessuno? Dopo aver sentito questi pezzi, venga da te. Da qualcun altro. Ma che schifo che è sta merda. Meno male che l'ho sentito, volevo andare da lui. Sai che schifo sarebbe venuto fuori. Invece no, sarebbe venuta una cosa figa. Anche perché io tutte le volte sono venuto a registrare con i gruppi miei. Da te mi sono sempre trovato bene, il risultato è sempre stato ottimo. Perlomeno, addirittura. Perlomeno nelle aspettative che avevo. E comunque è già un buon risultato. Bene. È il miglior risultato auspicabile, no? Sì. E niente, la parola okay. Penso che ci parla i contatti, queste cose. Allora, io ringrazio Ivan per avermi voluto qui a mandare queste canzoni. Ringrazio tutti i gruppi che mi danno la fiducia per venire a registrare da me. I miei contatti mi potete scrivere alla email lorenzobellia@hotmail.it o al mio profilo Facebook Lorenzo Bellia. E a breve, quando avrò finito definitivamente tutti i lavori, farò anche una pagina su Facebook del mio studio, un sito e tutto ciò che si fa, insomma, di qual è tutta la prassi di quello che si fa. E che altro dire? Ma che niente, potete andare a letto, potete risentirvi questa trasmissione più e più volte, perché comunque i gruppi che abbiamo passato sono fighi, le registrazioni sono belle, quindi un consiglio personale mio: se ascolti questa trasmissione, suoni e hai in mente di registrare il tuo disco, il tuo EP, il tuo demo, quello che vuoi, la tua canzone, eccetera eccetera, contatta Lorenzo e va a registrare da lui, perché il risultato sarà ottimo. Peccato di culo. E adesso finisce la trasmissione, la consueta sigla. Grazie di averci ascoltato. Ricordiamo, grazie, i contatti di Radio Wombat, che sono wombat.noblogs.org, il sito su cui potete vedere tutte le trasmissioni, risentire i podcast, eccetera eccetera. Oppure potete contattarci su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, o il Facebook è il classico facebook.com/radio-wombat-firenze, o l'indirizzo mail posta@wombat@insiberia.net. Volevo ricordarvi inoltre che a breve scade il bando per la realizzazione del logo di Radio Wombat, quindi se disegni, se schizzi, vabbè, se fai degli schizzi se fai degli schizzi è ancora peggio. Se hai un pennello in mano e lo usi per disegnare, i doppi sensi si sprecano. Insomma, se sei un disegnatore e vuoi disegnare il logo della radio, hai tempo 2-3 giorni per farlo e mandarlo. Trovi su Facebook tutte le indicazioni, oppure lo disegni e lo mandi direttamente in posta. Beh, siamo a fine di questa trasmissione, ci sentiamo lunedì prossimo con un altro ospite direttamente da Roma. E niente, buonanotte. Buonanotte. Hail and kill.